Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti di nuovo con voi Sebastiano Barisoni e vediamo di raccontare anche oggi questa giornata economico-finanziaria che parte con borse tutte in rialzo e che vanno a chiudere praticamente sui massimi: Milano più 2,80%, Francoforte più 2, Parigi più 2,5%, Londra più 3%, e l'America è chiusa oggi per l'Independence Day e quindi non fa testo e non fa nemmeno riferimento, così come non avremo alcuni riferimenti di mercato. Però le borse che vanno bene sono tutte quelle europee, il motivo si chiama Banca Centrale Europea principalmente, sarà oggetto del nostro approfondimento, non tanto le decisioni, perché ha lasciato i tassi di riferimento invariati allo 0,50% come ampiamente atteso da tutti, non solo dal mercato, ma anche e soprattutto perché anche la Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi invariati allo 0,50%. Tra l'altro la Banca d'Inghilterra ha confermato che continuerà a stampare moneta. Noi spesso citiamo la Banca Centrale Americana come grande stampatrice di moneta, ma in realtà anche la Banca Centrale inglese e quella giapponese lo stanno facendo. Dicevo, la Banca d'Inghilterra ha confermato che il programma di quantitative easing, cioè emetti titoli di Stato e li fai comprare alla tua banca centrale che li compra stampando moneta, continuerà e vale 375 miliardi di sterline. Non è un caso appunto che la borsa di Londra sia la migliore, anche se, ripeto, tutte le borse europee principali hanno rialzi tra il 2 e il 2,5%. In realtà Mario Draghi ha, non dico gelato, ma ha messo un po' di cautela su tutto questo dibattito su quando arriverà la ripresa, la luce in fondo al tunnel. Ha detto: attenzione, ci sono prospettive per una ripresa economica più avanti nell'anno e soprattutto nel 2014, però ha detto: noi continueremo ad avere una politica accomodante, quindi tassi bassi e prestiti alle banche, se vogliamo anche, fino a che sarà necessario. Addirittura ha accennato che i tassi di interesse dell'area euro potrebbero restare ai livelli attuali o anche scendere per un lungo periodo di tempo, e chiaramente di questo si sono avvantaggiate tutte le banche. UBI Banca guadagna il 7%, la Popolare Emilia Romagna il 6,80%, Fondiaria il 6,20%, ancora Intesa San Paolo più 4,80%, Banco Popolare più 4,30%, Monte dei Paschi più 3%, 3,90%, scusatemi, e poi anche bene Prismian, che non c'entra con i bancari, più 3,70%, bene Exor, la controllante del gruppo Fiat, più 5,60%, bene Finmeccanica, di cui ci occuperemo, confermata, ufficializzata la nomina nel gruppo Finmeccanica, e ne parleremo a lungo, anche perché c'è stata molta polemica, un braccio di ferro anche sotto traccia per quello che riguarda i vertici di Finmeccanica. Ne parleremo appunto in un approfondimento apposito. Dicevo, il titolo guadagna il 5,28%. Ancora sul fronte, tra l'altro, il Tesoro ha formalizzato la designazione di De Gennaro, e quindi di Gianni De Gennaro e Alessandro Minuto Rizzo in sostituzione dei due componenti del CDA di Missionari, e De Gennaro è stato nominato anche alla presidenza del gruppo Finmeccanica. Dicevo, tra gli altri titoli, Mediolanum più 4,90%, bene Fiat più 3,60%, bene Prismian, l'ex Pirelli Cavi, più 3,80%, non ho citato forse Monte dei Paschi, più 3,80% anch'esso, mi chiedete già di Unicredit più 3,5%, Enel più 3,1%, Ansaldo più 3%, come Pirelli. Sostanzialmente di negativo c'è solo Ferragamo, meno 0,50%. 349-238-6666 per i vostri sms, e come sempre la pagina di Focus Economia su Facebook. Ringrazio Enrico Brivio per questi giorni in cui mi ha sostituito, e tornerà Enrico Brivio anche a metà agosto. Grazie per il lavoro svolto. Adesso noi invece andiamo a raccontare innanzitutto le notizie in breve di questa giornata, poi ci occuperemo della Banca Centrale Europea e delle indicazioni arrivate da Mario Draghi. all'interno anche di quanto deciso ieri dall'Unione Europea, ossia dare anche all'Italia la possibilità di margini più ampi sul deficit. Chiariremo come, però, perché chi si illude che adesso si possano allargare i cordoni della spesa fa un errore madornale. C'è una possibilità diversa, visto che l'Italia ha dimostrato, uscendo dalla procedura di infrazione sul deficit, di avere rimesso in ordine, o aver iniziato a rimettere in ordine i suoi conti pubblici a partire dal deficit, appunto. C'è la possibilità di avere un po' più di margine, non quello che chiedeva il governo italiano, la cosiddetta Golden Rule, quindi separare gli investimenti dal resto del deficit, non contabilizzare gli investimenti produttivi, come possono essere le infrastrutture, sia materiali che digitali, per esempio, dal calcolo del deficit. Non è esattamente la Golden Rule, però è sicuramente un ammorbidimento simile a quello ottenuto da Francia e Spagna per alcuni versi sulle condizioni del deficit, sul tetto del 3% sul deficit. Stima prudenziale sui 14-15 miliardi per l'anno prossimo, soprattutto. Dicevo, di questo parleremo anche di Finmeccanica, della vicenda Rizzoli Corriere della Sera, perché Diego Della Valle, uno degli azionisti di riferimento del gruppo, ha annunciato una conferenza stampa che dovrebbe essere iniziata a momenti, ma non vediamo ancora agenzie. E poi, se ce la facciamo, parleremo anche del mondo dell'agricoltura, perché è uno dei pochi settori in cui c'è un ritorno di occupazione, soprattutto di occupazione giovanile, un ritorno dei giovani sotto i 35 anni che vanno a fare gli agricoltori, ben inteso un'agricoltura anche diversa, quella che vanno a coprire questi giovani con un approccio molto più manageriale. Nulla da togliere all'agricoltura di vecchio stampo, però mi piace anche poter dire che, insomma, una volta si diceva braccia rubate all'agricoltura, chissà che con questa crisi e con la neosobrietà che ha portato e con la ridefinizione anche dei valori, la manifattura e l'economia reale come produttrice di ricchezza, la finanza come produttrice di ricchezza aleatoria, non si possa dire un giorno braccia rubate alla finanza. Allora, per quello che riguarda gli altri mercati, l'oro prosegue il suo rialzo, era arrivato a minimi da 2 anni a questa parte. In realtà incide la crisi egiziana sul rialzo del prezzo dell'oro, incide nel senso che ogni volta che c'è una tensione internazionale l'oro riscopre la sua vocazione di bene rifugio. Il petrolio anche qui incide, e la crisi in Egitto resta sopra i $100 al barile, era tornato a un livello che non vedeva da mesi proprio per le tensioni in Egitto. Partono i primi rincari anche sulle quote sui mercati internazionali per i greggi, ma anche per i loro prodotti, hanno registrato più 15 euro ogni 1000 litri per benzina e diesel sui mercati internazionali. Il numero uno dell'Eni, e mi riferisco chiaramente a Paolo Scaroni, ha detto che, insomma, l'Eni tra l'altro è il primo produttore di idrocarburi in Egitto. Ha detto Scaroni: per il momento va tutto bene, tutto ok, ho ragione di preoccuparmi ma non molto. Sono più preoccupato, ha continuato Scaroni, per il paese Egitto al quale vendiamo gas e quindi ci deve pagare. Per l'Egitto il turismo è una fonte di entrata essenziale e faccio fatica a immaginare, ha detto Scaroni, che le rivoluzioni attraggano i turisti, e su questo ci sono pochi dubbi. Tra l'altro vi anticipo che domani Salva Danaio con Deborah Rosciani si occuperà proprio delle tutele per tutti i turisti italiani che avevano prenotato viaggi in Egitto, perché c'è anche questo aspetto, sicuramente minoritario, però c'è, e sono molto preoccupati migliaia di italiani che avevano già prenotato le loro vacanze in Egitto. Andiamo avanti invece sulla Grecia, proseguono a rilento i negoziati del governo greco con la Troica. Oggi notizie preoccupanti dal Portogallo non ce ne sono, però attenzione che il Portogallo potrebbe rappresentare un nuovo caso, un nuovo elemento di preoccupazione per quello che riguarda l'area euro. Lo spread è sceso oggi, ma per effetto soprattutto delle parole di Mario Draghi, a 280 punti lo spread italiano. La brutta notizia invece riguarda i nostri conti pubblici: è peggiorato il deficit nel primo trimestre, al 7,3%, attenzione, non è il deficit che conta per l'Europa, però le entrate sono ferme e le uscite più 1,3%. La pressione fiscale nei primi tre mesi dell'anno è salita al 39,2%, anche qui più 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2012. Questa però è la pressione fiscale diretta, perché poi bisogna considerare le addizionali, i regionali, bisogna considerare anche altre formule, ecco perché poi si dice che è al 43%, e per chi le tasse le paga veramente, quindi se si leva il nero da questo siamo oltre il 50%. Vedo che molti di voi ci chiedono perché l'ex capo della polizia, quali siano le sue competenze per diventare presidente di Finmeccanica. Sì. Non sempre i presidenti hanno competenze inerenti, cioè il presidente ha anche un ruolo di rappresentanza, questo lo vediamo anche nelle grandi partecipate dello Stato, cioè deve essere un manager. In questo caso è una figura più strana perché viene dal mondo della polizia, un famosissimo capo della polizia, Gianni De Gennaro. Ma andiamo avanti con le altre notizie, poi vi arriveremo. Allora, c'è stato un po' di maretta sui pagamenti che lo Stato deve fare alle imprese che aspettano da mesi e anni. Sono oltre 90 miliardi, lo Stato ha promesso, il governo ha promesso 40 miliardi nei prossimi due anni. Perché maretta? Perché questa mattina il ministro Zanonato ha detto: mi piacerebbe tanto pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione entro 2013, ma non so se si può fare. Non è cattiva volontà, c'è un problema tecnico, il governo ha rimosso l'ostacolo, ora tutte le varie fonti di spese devono attivarsi per pagare, stiamo monitorando. E lì era subito arrivate le polemiche, perché è dovuto intervenire il premier Enrico Letta, scusatemi, alle 10.46, quindi un'ora dopo, un'ora e mezza dopo, perché, e durante il vertice di maggioranza, per dire: attenzione, in autunno accelereremo i pagamenti nei confronti delle imprese che vantano crediti con la pubblica amministrazione. E a quel punto, altre due ore dopo, il ministro Zanonato ha detto: attenzione, io ho detto le stesse cose del premier Letta, mi auguro si riesca ad accelerare e sono ottimista. E a quel punto è intervenuto anche il presidente di Confindustria Squinzi, che ha detto: buona la notizia dell'accelerazione dei pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione decisa oggi dalla maggioranza del governo. Due ore infatti di vertice di maggioranza, soddisfatto il presidente del consiglio alla fine, il governo va avanti, ha detto ai suoi ministri, fissata l'agenda, sette provvedimenti su cui la maggioranza si fa carico di accelerare in Parlamento, tra cui appunto quello sui debiti della pubblica amministrazione, la riforma dell'IMU sarà nero su bianco entro Ferragosto dopo la sentenza della consulta, tra l'altro sarà presentato un disegno di legge per tagliare le province, disegno di legge che deve avere a questo punto un carattere costituzionale. Il nuovo vertice di governo si terrà il 18 luglio, intanto il ministro Cancellieri si è detta pronta a incontrare gli avvocati che protestano contro di lei. E parleremo più avanti, dicevo, anche del mondo dell'agricoltura, perché oggi si è tenuta l'Assemblea Nazionale della Coldiretti, in cui è emerso un dato positivo: il 9% di giovani in più assunti nel mondo dell'agricoltura nel 2013. E ha detto il presidente Marini: con il ricambio generazionale potremmo arrivare a 200.000 nuovi posti di lavoro nel mondo agricolo. E qualcuno di voi mi chiede: ma è meglio o peggio un mondo in cui i giovani vanno a fare gli agricoltori invece che andare a lavorare alla City di Londra? Non lo so, intanto un po' di riequilibrio forse ci voleva, ecco, no? Dopodiché, insomma, non voglio dare giudizi, la finanza è fondamentale, è l'olio del motore dell'economia, forse c'era stato un eccesso, no, di esaltazione negli anni 90, di quello è 80, tutti i laureati che volevano andare a Londra o a Wall Street a fare i Gordon Gekko della situazione. Meglio così, meglio riequilibrare, no? Meglio smetterla di pensare che l'agricoltura sia il contadino caricaturale di 30 o 40 anni fa. la cosa invece preoccupante che denuncia oggi la Coldiretti, fermo restando che a mio avviso il problema degli investimenti, degli acquisti stranieri di marchi italiani è un non problema, noi siamo il paese che attrae meno investimenti esteri di tutta l'area euro, magari arrivassero capitali stranieri per tenere l'occupazione qui, comprare i nostri marchi, rilanciarli. Insomma, siamo in un mercato unico, qual è il problema? Così come noi dobbiamo andare a fare shopping all'estero, va benissimo se uno dei flussi capitali stranieri in Italia. Però fanno notare la Coldiretti che praticamente sono passati in mani straniere marchi italiani per 10 miliardi di euro, da Orzo Bimbo a Fiorucci. Allora, Orzo Bimbo, gli spumanti Gance, i salumi Fiorucci, la Parmalat, che, di cui spesso parliamo, la Star, il riso Scotti, il vino Chianti, nel cuore del Dolce Gira il Gallo Nero, insomma, diventata proprietà di un imprenditore cinese. Tantissimi marchi di prestigio. Allora, questo può voler dire, da un lato, che il nostro Made in Italy in questi settori tira ed è appetibile, dall'altro però quella che denuncia la Coldiretti è un'escalation nella perdita del patrimonio agroalimentare nazionale. Però io posso dire una cosa, poi ne parleremo con Marini, è vero, da italiano preferisco magari che sia un imprenditore italiano a comprare, ma se non si fanno avanti gli imprenditori italiani, come nella vicenda Bulgari o nella vicenda Parmalat, beh, allora non ci lamentiamo, l'importante è che arrivino i soldi. Meglio se sono italiani, ma se nessuno vuole comprare questi marchi, e che cosa deve succedere in un mercato aperto? Un'ultima notizia che riguarda l'Italia: il ministro dei trasporti Maurizio Lupi ha escluso un sostegno economico del governo dall'Italia e ha sottolineato come la Cassa Depositi e Prestiti non è la mamma e il bancomat di tutti. Questo dopo che ieri l'Italia aveva presentato un piano industriale in cui l'utile viene rivisto solo nel 2016 e l'amministratore delegato del Torchio aveva specificato che entro fine anno serve liquidità per 300 milioni di euro, i soci devono ancora 55 milioni del prestito convertibile. Nel nuovo piano i passeggeri cresceranno nel 2016 del 3%, le rotte del 36%. Sugli avvocati, mi date non tregge più se ce l'abbiamo, perché forse io sugli avvocati non ce l'ho con gli avvocati, però piccarsi perché il ministro cancellieri gliel'ha definita una lobby, ma di cosa stiamo parlando? Ma ci ricordiamo cosa successe con il governo Monti, quando si rischiò di bloccare, di far venire meno la fiducia perché venne nostro ospite anche l'avvocato Paniz, perché c'era un'ipotesi di riforma dell'ordine degli avvocati che non piaceva agli avvocati? Cioè, voglio dire che il mondo degli avvocati sia una lobby in Italia è una cosa sacrosanta, come dire che anche i giornalisti non abbiano il loro potere. Non capisco il perché di questa pseudo verginità da parte degli avvocati in un paese in cui ci sono 407 avvocati ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 127, in cui da più parti si dice, e quello che il ministro Cancellieri voleva dire, che delle volte anche la semplificazione della giustizia non è che veda tutta questa partecipazione nel mondo dell'avvocatura, perché spesso gli avvocati, possiamo dirla brutalmente, ci fanno i soldi con i processi lunghi, no? Allora, il sospetto delle volte è solo un sospetto che la lungaggine dei nostri processi, anche e soprattutto di carattere civile e non penale, diciamo, possa non dispiacere al mondo dell'avvocatura. Allora, il ministro Cancellieri, per carità, può essere stata improvvida, ha detto gli avvocati, le grandi lobby che impediscono che il nostro paese diventi un paese normale, si è vista attaccare dall'ordine degli avvocati. Io faccio solo però notare che gli avvocati, insomma, in Campania sono 652 ogni 100.000 abitanti, la regione che ha tra l'altro il 61% delle cause per sinistri stradali. In Lazio sono 524 ogni 100.000 abitanti, cioè sono 5 volte la media europea. In Puglia 586, in Calabria 664. Allora, su questo si può anche ragionare, senza piccarsi troppo. Comunque, no, non ce la faccio adesso a fare notizie sulla spesa pubblica, vorrei andare subito sul primo tema, è quello della Banca Centrale Europea, poi se ce la facciamo oggi, se no c'è anche la puntata di domani, perché qualche notizia carina, per modo di dire, l'abbiamo anche oggi. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, le prospettive di ripresa si spostano più avanti nell'anno e poi nel 2014, e ha detto: resteremo accomodanti come politica monetaria fin quando sarà necessario, quindi non tirateci per la giacca. Era rivolto soprattutto ai paesi del nord, alla Germania. I tassi sono ai livelli attuali sono già bassi e resteranno bassi a lungo e potrebbero essere anche più bassi. Gli indicatori della fiducia, basati sulle analisi congiunturali, hanno indicato ulteriori miglioramenti rispetto ai livelli bassi. Il nostro orientamento di politica monetaria è mirato al mantenimento del livello di politica accomodante garantito dalle prospettive della stabilità dei prezzi nel promuovere delle condizioni del mercato monetario stabili. Pertanto questo consente di sostenere la ripresa dell'economia più avanti nell'anno e nel 2014. In prospettiva, il nostro orientamento di politica monetaria resterà accomodante fin tanto che sarà necessario. Il Consiglio direttivo prevede che i tassi di interesse di riferimento della BCE resteranno a livello attuale o a livelli inferiori per un periodo prorogato. Questa aspettativa è basata sulle prospettive moderate di inflazione in generale che si protrarranno nel medio periodo, data la debolezza su vasta scala dell'economia reale e le dinamiche monetarie contenute. In prospettiva monitoreremo tutte le informazioni in ingresso sugli andamenti economici e monetari e valuteremo qualsiasi impatto sulle prospettive della stabilità dei prezzi. Così appunto il Presidente della Banca Centrale Europea, che ha anche aggiunto i rischi permangono nell'economia e siamo ancora orientati come prospettive al ribasso. Poco fa, qualche minuto fa, sono arrivate anche le stime del Fondo Monetario Internazionale, che era in visita in questi giorni all'Italia, ha tagliato le stime sul PIL per il 2013, chiuderemo a un meno 1,8%, più o meno quanto ci ha già detto anche il Centro Studi Confindustria, l'anno prossimo più 0,7%. Con prospettive di crescita che restano deboli, e poi il Fondo Monetario invita l'Italia a risanare risanare fiscalmente il paese per sostenere la crescita. Occorre fare più tagli alla spesa pubblica e abbassare le tasse. Su questo mi sembra che ci sia un consenso unanime in chi la vuol capire, in chi non vuol difendere piccole rendite di posizione, anche i dirigenti dei ministeri, a partire dai dirigenti dei ministeri. Draghi ha rinvigorito tutte le borse oggi e i titoli bancari. Vorrei parlarne con chi segue da vicino la politica economica di questo paese, dell'Europa, e mi riferisco a Daniel Gross, che è direttore in collegamento con noi da Bruxelles, dove è direttore del Centro per gli Studi e le Politiche Europee. Buonasera. Buonasera a Bruxelles. Allora, dottor Gross, Mario Draghi è sembrato rispondere a chi in queste settimane ha criticato, è inutile girarci attorno, la Bundesbank, alcuni esponenti tedeschi, al di là del Karlsruhe, del processo intentato alla Banca Centrale Europea, ha detto: io continuerò a usare una politica accomodante fin quando sarà necessario. nel giorno in cui la banca centrale inglese, la Banca d'Inghilterra, ha detto noi continueremo a stampare moneta per 375 miliardi di sterline all'anno. Le chiedo una cosa, secondo lei c'è una valenza solo economica o, come abbiamo visto noi, c'è anche, tra virgolette, un lato politico in questa risposta sull'indipendenza della Banca Centrale Europea? Non penso che sia una risposta politica, nel senso dobbiamo affermare l'indipendenza della Banca Centrale Europea, ma piuttosto una valenza politica, nel senso per il momento noi vediamo l'economia europea molto debole, per cui serve un stimolo monetario che continui un altro po'. Quindi diciamo non più come politica economica che politica to cure, che politica in senso stretto. Quando Mario Draghi dice noi siamo indipendenti e non reagiamo a quello che fanno altre banche centrali, lei come lo legge? Cioè come una dichiarazione, una presa d'atto che l'America ha tutta una sua dinamica, l'Europa e l'area euro è in un'altra situazione, oppure come anche qui un elemento di maggior peso politico? No, penso di nuovo sia soprattutto rivolto a chi ha letto l'annuncio della Fed che loro cambiavano corsa, per dire magari gli altri possono già cambiare un po' direzione, ma per noi rimane tutto inalterato. Sentiamo questo passaggio in cui Mario Draghi appunto ha detto insomma, al di là di quello che fanno le altre banche centrali, noi proseguiamo con la nostra specifica linea. Bene, in realtà quello che è successo negli ultimi mesi, anche la stretta monetaria che è avvenuta in molti comparti della curva degli interessi, in molti segmenti, quindi questo ha influito. In realtà è questo quello che è successo, quindi in presenza di una debolezza sostanzialmente continua dell'economia nonostante nuovi indicatori soft che sembrano indicare non dei fortissimi miglioramenti ma almeno un più lento ritmo di peggioramento dell'economia, questi sono stati i fattori, mi correggo, un ritmo più lento di peggioramento degli indicatori stessi, quindi l'economia registra un calo, ma registra un calo ad un ritmo più lento. Quindi credo che questa sia stata la situazione e che ci ha portato a fare queste riflessioni. Ora noi non stiamo reagendo rispetto ad altre decisioni di politica monetaria di altre banche centrali. Sicuramente vogliamo chiarire il più possibile quelle che sono le nostre valutazioni nelle prospettive del medio periodo di inflazione e qual è la nostra funzione di reazione. Daniel Gross, lei resti con noi perché vorrei arrivare anche a altri rischi presenti, però mi dica una cosa, a questo punto secondo lei tra quanto deciso ieri da Bruxelles e quanto detto oggi da Mario Draghi, stiamo disegnando l'architettura di un'Europa e di un patto di stabilità più intelligente, per usare le parole di Prodi? No, non penso. No. Resterà stupido? Resterà stupido, ma l'economia non cambia, ma l'economia rimane ancora più debole di quanto previsto e poi l'Italia, Spagna, altri paesi importanti adesso cominciano ad avere un surplus nei conti correnti con l'estero, per cui si possono finanziare i loro deficit fiscali da soli, per cui la pressione da Bruxelles non serve più tanto. Sì, ho capito il suo ragionamento. Abbiamo il metodo della pubblicità, resti ancora qualche minuto con noi Daniel Gross perché vorrei invece aprire una piccola parentesi sul Portogallo, dove oggi, a mio avviso, Mario Draghi ha gettato acqua sul fuoco, cioè ha detto attenzione, non è la prossima Grecia, la prossima Cipro, ha fatto anche grandi passi avanti. 349-238-6666 per i vostri sms. E poi la pagina di Focus Economia su Facebook, volete le campane per la borsa? Vabbè, dopo il meteo. 17:42 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Le campane ve le ho messe, la borsa ha chiuso sui massimi, mamma mia, più 3,44% nel finale. Daniel Gross, le faccio ascoltare quello che ha detto Mario Draghi sul Portogallo e poi vorrei capire se qui non stiamo tutti eccedendo con il panico e l'ansia oppure se la situazione sia ancora molto molto molto fragile. Draghi sul Portogallo. Per quanto riguarda il Portogallo, credo che il Portogallo abbia conseguito dei risultati assolutamente encomiabili. È stato un processo doloroso, radicale, percorso difficile. I risultati che sono stati conseguiti sono stati significativi, lodevoli, se non addirittura straordinari. Credo che dovremo dar credito al governo di questo, soprattutto al ministro Gaspar, che ha appena dato le dimissioni. Siamo stati anche rassicurati dal fatto che il nuovo ministro, almeno di tutto quello che sappiamo di lei, sua personalità, ecco, lei è stata molto presente nelle Euro Meeting, quindi da questo punto di vista il Portogallo sta in buone mani. Ora non vorrei commentare le evoluzioni politiche del Portogallo, anche perché non sarebbe mio compito esprimere commenti su questo fronte, ma sono sicuro che stanno intraprendendo le giuste misure. Allora, Daniel Gross, acqua sul fuoco perché diciamo, siamo tutti un po' in tensione oppure in realtà il rischio, diciamo, soprattutto per nella cosiddetta periferia dell'euro è ancora molto forte? C'è senz'altro un certo rischio Portogallo. Draghi ha detto solamente che il Portogallo abbia fatto molti sforzi, ma non ha parlato dei risultati che sono poi quelli che contano alla fine. Perché in fondo la situazione del Portogallo all'inizio della crisi era delicata quanto quella della Grecia, perché il Portogallo aveva più o meno lo stesso debito estero, non quello pubblico, ma quello estero della Grecia. Per cui l'aggiustamento doveva essere altrettanto doloroso che in Grecia. L'unica differenza sta nel fatto che il Portogallo, anche grazie agli aggiustamenti fatti, sta crescendo nelle esportazioni. E questo è il punto più importante, perché il Portogallo si può uscire, può ripagare il suo debito, si riesce ad aumentare le esportazioni. E su questo fronte i primi segnali sono molto positivi, ma prima di farcela bisogna aspettare altri 2-3-4 anni per vederlo. Nel frattempo i mercati resteranno nervosi, ma se il Portogallo continua su questa strada, crescendo le esportazioni, alla fine ce la farà. Sì, che invece sono il vero tallone d'Achille della Grecia, che esporta poco e pochissimo. Mi dica, nel salutarci, un'ultima cosa. La decisione presa ieri dall'Unione Europea, che molto entusiasmo, anche se il portavoce del commissario Olli Rehn ha specificato, attenzione, il deficit resta al 3% come limite, nemmeno con le nuove regole per gli investimenti pubblici. Però insomma, ci siamo troppo entusiasmati ieri oppure in realtà c'è un cambio di passo in Europa? No, non penso che questa notizia doveva essere, come dire, presa in Italia come adesso possiamo spendere un po' di più, perché l'Italia ha già il tetto massimo del debito che si può mettere. Ogni euro che spende l'anno prossimo dovrà spendere in meno l'anno dopo. Per cui si tratta solamente di spendere magari un po' più un anno, ma poi l'anno dopo bisogna spendere di meno quell'euro e in più interessi, per cui non conviene veramente all'Italia. No, questo è per frenare anche un po' di entusiasmo, ma noi abbiamo preparato su questo una scheda che spiega nel dettaglio. Intanto ringrazio il direttore del Centro per gli Studi sulle Politiche Europee di Bruxelles, Daniel Gross. Dicevo, una scheda che spiega esattamente che cosa ha deciso e quali possibilità ci ha dato ieri l'Europa senza generare false e pericolose illusioni. Quella accordata ieri da Bruxelles ai paesi dell'Unione che presentano conti in ordine e hanno necessità di rilanciare la crescita economica è una libertà molto vigilata. Comunque un passo, seppur piccolo, verso l'idea di una maggiore flessibilità nella spesa pubblica che si sta faticosamente facendo strada nei palazzi di Bruxelles. La principale novità annunciata ieri è che i paesi con un deficit al di sotto del 3% potranno operare sforamenti temporanei della soglia per realizzare opere cofinanziate dall'Unione Europea e dalla cui realizzazione si attende un effetto di rilancio economico, dunque principalmente infrastrutture. Il tetto del 3% rimane comunque inviolabile, visto che eventuali sforamenti saranno tollerati solamente nel corso dell'anno, fatto salvo l'obbligo di presentarsi al 31 dicembre con le cifre in ordine. Il richiamo al rigore è stato anche ribadito attraverso la conferma delle regole sul debito, con l'impegno annuale di ridurre di un ventesimo la parte eccedente il 60% del PIL. Pur nel rispetto di tutti i paletti fissati da Bruxelles, il nostro paese dovrebbe riuscire a mobilitare una somma pari a circa 7-8 miliardi di euro. Questo purché vengano alla fine confermate le più recenti previsioni su deficit e crescita economica. In particolare, nel 2013 l'Italia dovrebbe registrare un disavanzo pari al 2,4% del PIL, un livello che metterebbe a disposizione di politiche di spesa pubblica poco più di mezzo punto di prodotto interno, appunto circa 8 miliardi. Se le previsioni saranno confermate, l'ok agli stanziamenti arriverà in autunno, quando la Commissione europea esaminerà la legge di stabilità per il 2014. Le valutazioni avverranno infatti caso per caso e paese per paese, senza alcun automatismo. La tipologia di spese ammesse esclude, in ogni caso, che la cifra possa essere utilizzata per finanziare la soppressione dell'IMU o l'eliminazione dell'aumento dell'IVA. Allora, ha chiarito la nostra scheda, ed era importante perché ho letto molte imprecisioni oggi, che questi sforamenti sono temporanei, per cui tu nell'arco dell'anno puoi anche andare come proiezione sopra il 3% e basta che poi rientri sotto o al tetto del 3%. Entro il 31 dicembre le tue cifre devono essere in ordine. Se l'anno prossimo noi dovremmo avere da proiezione un deficit al 2,4%, è chiaro che possiamo avere questo 0,6% di margine, ma potresti anche andare al 3,4 in un certo periodo dell'anno. L'importante è che al 31 dicembre tu ritorni al massimo al 3% con una manovra correttiva, tagliando la spesa, non mi interessa come. Per questo motivo dico attenzione ai facili entusiasmi, perché alla fine dell'anno devi stare entro il 3% di deficit sul PIL. Abbiamo già detto, lo dico chi mi scrive, che la spesa pubblica è aumentata dell'1,3%. Sugli avvocati io dico massimo rispetto di tutte le categorie professionali, a maggior ragione degli avvocati, però ad alcuni che mi stanno scrivendo mettetevi una mano sulla coscienza, fate una bella riflessione, perché se continuate a scrivermi che gli avvocati non sono una lobby in questo paese, ce ne sono tante altre di lobby, allora mi tocca citare quanti sono gli avvocati presenti in Parlamento, la categoria professionale più rappresentata nel Parlamento, e che cosa è successo un anno fa in piena crisi con il governo Monti, quando in maniera trasversale, bipartisan, gli avvocati minacciarono di non votare la fiducia al governo ma si manteneva il testo di riforma sull'ordine degli avvocati così come l'aveva presentato il governo Monti. Se questa è assunzione di responsabilità e se questa non è la dimostrazione che c'è una lobby, ditemi voi cosa serve. Chiudiamola qui, se no mi tocca citare quel detto molto in voga tra gli avvocati: causa che pende, causa che rende. Traffico. Nice again. 110 parlamentari sono avvocati, 72 alla Camera, 38 al Senato. Continuate a scrivermi e io vi rispondo. È la lobby più importante, la categoria professionale più rappresentata in tutto il Parlamento italiano. E le conseguenze le abbiamo viste. Dopodiché non sto difendendo il ministro Cancellieri, ma fare le verginelle, offendersi perché ha detto che gli avvocati sono la lobby, mi sembra veramente una questione da zecca garbugli, va bene? Lo sappiamo tutti che così ci sono tante lobby, l'importante è giustamente codificarle come viene fatto in America, dare delle regole anche sui regali, e sul resto, ok? Allora, la borsa, dai, così continuiamo con una buona notizia. Chiusura sui massimi oggi di Piazza Affari dopo le parole di Mario Draghi, che ha detto: io continuerò ad aiutare l'economia, a tenere le politiche accomodanti fin quando sarà necessario, e potrei anche abbassare i tassi di interesse se fosse necessario. Iniziamo il commento, perché poi lo continueremo nella seconda ora del programma. UbiBank, il dato generale più 3,44%, Milano è la migliore perché le banche pesano più che altrove da noi, più 3,44%, Parigi più 2,90%, Francoforte più 2,11%, Londra più 3,1%, l'America è chiusa, Independence Day. I titoli bancari più 7,80% UbiBank, più 7,70% la Popolare Emilia Romagna, più 6,80% Fondiera Assai, più 5,80 Intesa San Paolo e anche Mediolanum, più 4,5 Unicredit e il Banco Popolare, ma anche il Monte dei Paschi. Tra chi guadagna e non è bancario, cito Buzzi Unicem più 6,80, Finmeccanica più 6,40, Exor più 6,20, la controllante di Fiat. Ancora Prismian, ex Pirelli Cavi più 4,30, Fiat appunto più 4%, Gtech più 4%, Mediobanca più 3,70 come Enel e Pirelli, il 3,5% lo guadagna Terna e il 3,1% Ansaldo, ma anche Fiat Industrial, il 3% a rialzo di Atlantia e Snam Rete Gas. Come sempre con Radio Colli sulle 24 ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, saltiamo i bancari, tanto abbiamo fatto un ampio approfondimento su Mario Draghi e andiamo subito sul settore auto. Che è successo tra Exor e Fiat? Beh, è successo che il settore auto in tutta Europa è stato tra i più comprati, anche perché gli analisti sono convinti che le indicazioni sull'immatricolazione Europa al momento ancora negative siano ormai arrivate diciamo al punto più basso, al punto di rimbalzo, per cui è andata bene in tutta Europa il settore, è andata bene Peugeot a Parigi e ne ha beneficiato anche Fiat e ne hanno beneficiato anche i settori diciamo strettamente legati. Per quanto riguarda Milano, Pirelli ad esempio ha guadagnato il 3,65%, quindi un auspicio, sì, e un'ambizione di un rimbalzo finalmente delle immatricolazioni auto in Europa. Adesso abbiamo il GR, poi parliamo anche di Finmeccanica, di Rizzoli, Corriere della Sera, perché Diego Della Valle ha confermato. Pubblicità. 18:06, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, continuiamo l'approfondimento di borsa, però chiedo agli avvocati di non continuare a scrivermi, non abbiamo offeso nessuno, abbiamo solo detto che anche gli avvocati sono una lobby. Lobby non è un'offesa negli Stati Uniti, sono una categoria professionale molto importante, molto presente, la più presente in Parlamento. Qual è l'offesa? Me lo dovete spiegare, quali sono o quali siano le inesattezze, non ho capito, nel dire che non c'è nulla di male nel ricordare che anche gli avvocati sono una lobby e quando c'è stato da riformare, era stato riformato, poi ripristinato la vecchia situazione dell'ordine e soprattutto delle tariffe, non voglio tornare sulla Bersani, su tutte le polemiche, sulle discussioni che avemmo anche in diretta con il presidente degli ordini degli avvocati, non c'è nessun accanimento, ma basta non negare l'evidenza. Allora, per quello che riguarda invece la borsa, dicevamo dei titoli di Fiat soprattutto. Bene, tutti i bancari, ripeto, non ha senso dopo aver commentato le parole di Draghi commentarli. Di Rizzoli, Corriere della Sera parliamo tra un attimo. Mentre bene anche i titoli industriali, Buzzi Unicem soprattutto, Andrea Fontana, più 6,80%. Sì, una buona giornata per tutto il settore del cemento. In Francia la Farge ha trainato il settore, è chiaramente uno dei settori che si muove sulla base delle condizioni macro, e che diciamo così qualche rassicurazione arrivata da Draghi ha fatto sostenuto negli acquisti sostanzialmente. Oggi giornata molto, molto positiva anche dal punto di vista delle materie prime, perché il petrolio, anche per le, soprattutto per le tensioni egiziane, è salito sopra quota $100 al barile, e quindi diciamo che anche gli industriali si sono mossi positivamente, non ultimo Finmeccanica, ma questa per ragioni più interne, diciamo così. Miglior titolo in assoluto Telecom Italia Media, le ha fatto bene la cessione di MMTV, che è andata questa mattina in notizia a Viacom per 10 milioni di euro, il 51% di MMTV, il titolo guadagna il 18,60%. Sì, è stato il migliore, diciamo che con questa operazione collegata a quella realizzata a gennaio, cioè con la vendita di L7 a Cairo, T-Media si è sostanzialmente liberata delle attività televisive, ma dal punto di vista finanziario si è liberata delle attività in perdita, quindi rimangono in pancia a T-Media solo le tre frequenze televisive che invece realizzano profitto, quindi da questo punto di vista è una società che adesso ha dentro degli asset positivi, degli asset che alla fine dell'anno realizzano un margine operativo. Questo è molto importante per gli investitori, per questo il balzo di oggi. Ancora tra i migliori e peggiori IKF più 11,90, UBI Banca l'abbiamo detto più 7,80, i peggiori PMS meno 7,80%, Mer Tecnimon meno 5,86%, Screen Service Broadcasting meno 5,80%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera Sebastiano. E noi invece torniamo anche sulle ultime notizie, perché poco fa ha parlato il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni nella conferenza stampa con il Fondo Monetario Internazionale, che era in visita nel nostro paese. Ha chiesto di abbassare le tasse e ridurre la spesa pubblica. Saccomanni ha detto che la ripresa vi sarà nella seconda parte del 2013. Ma poi ha aggiunto, possiamo abbassare le tasse sul lavoro, quindi il cuneo fiscale, solo e quando riprenderà la crescita economica. L'obiettivo è quello di ridurre nel tempo, come obiettivo strategico di medio periodo, la tassazione sulle imprese, sul lavoro, e che è sono le fonti per una crescita più sostenuta dell'economia italiana. Naturalmente ci troviamo in questa fase in cui evidentemente questo processo potrà essere facilitato dalla ripresa dell'attività economica che ci aspettiamo si materializzi nella seconda parte dell'anno. Sì, qui bisognerebbe anche capirsi, perché ho capito cosa dice il ministro, se l'economia riprende possiamo abbassare le tasse sul lavoro. Il problema è che se abbassi le tasse sul lavoro hai più possibilità che l'economia riprenda, e allora non giochiamo con i nessi causali, l'uovo o la gallina. È chiaro che abbassare le tasse sul lavoro significa anche far ripartire l'economia, ministro. Ho capito che lei ha il problema dei conti pubblici, però abbassare le tasse una volta che riparte l'economia è sicuramente utile, ma non dà quell'effetto, diciamo, volano, incentivo virtuoso che darebbe proprio nel momento in cui l'economia è stagnante, in recessione pesante quest'anno, meno 1,8%, ci ha appena detto il Fondo Monetario. Ecco, quello permetterebbe di respirare e far respirare soprattutto i consumi interni. Polemica invece per la dichiarazione del ministro Saccomanni sull'IMU. Tutti i siti ci stanno aprendo. Che cosa è successo? Il Fondo Monetario Internazionale ha detto sostanzialmente, ha invitato il governo italiano a non cancellare l'IMU sulla prima casa, e Saccomanni ha detto terremo conto delle opinioni del Fondo Monetario. È una questione che stiamo valutando, abbiamo indicato un orizzonte di tempo che personalmente spero possa essere completato prima delle vacanze di agosto. Certamente terremo conto anche dell'opinione del Fondo Monetario su questo tema, che peraltro era nota ex ante, e quindi diciamo l'obiettivo è quello di trovare un consenso all'interno della coalizione. Stiamo lavorando su questa linea. E poco fa, sempre sul tema della crescita, è intervenuto il presidente di Confindustria, e mi riferisco chiaramente a Giorgio Squinzi, che ha detto a margine dell'assemblea di Confindustria a Ravenna: la crescita del PIL italiano, anche quella per l'anno prossimo, lo 0,7%, sarà insufficiente a creare lavoro. Lo 0,7%, dopo i cali che abbiamo avuto in questi anni, obiettivamente è meglio che niente, però per chiamare quella crescita mi sembra un po' eccessivo. E però prima di arrivare ai temi dell'economia anche reale, vi ho promesso che parleremo del mondo dell'agricoltura. Vorrei un aggiornamento, perché si è tenuta una conferenza stampa abbastanza sorpresa, che si è conclusa, da parte del numero uno delle TOZ, ma socio importante del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, e mi riferisco chiaramente a Diego Della Valle, il quale ha annunciato circa mezz'ora fa che sottoscriverà l'aumento di capitale, e il titolo in realtà si era mosso poco in attesa di questa decisione. È con noi Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Della Valle ha detto: sottoscrivo l'aumento di capitale, se il piano funziona prendo oltre il 20% dell'inoptato, anche tutto l'inoptato, speriamo non ci sia da fare una battaglia. Allora, per fare capire a tutti, qui insomma, sappiamo che Della Valle è molto critico col vecchio patto Rizzoli Corriere della Sera, che Agnelli ha aderito e ha aumentato la sua quota, diciamo, in maniera molto netta e decisa, che altri soci invece si sono sfilati. Come va letto l'annuncio di oggi di Diego Della Valle? Beh, possiamo dire in questi termini: chi si aspettava una battaglia probabilmente non resterà del tutto deluso, in quanto la decisione di sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale, in modo, è bene che si capisca, di lasciare inalterata la quota attuale, ovvero di poco più del 9%. Questa è un po' è la quota, sono circa 40 milioni il valore della quota di Della Valle. Quindi, diciamo, in questo senso dire io sottoscrivo, pur essendo in disaccordo con l'attuale gruppo che sta un po' gestendo e conducendo l'aumento di capitale, ovvero Fiat, Mediobanca, Intesa, questo per far capire un po' i tre soggetti chiave di questa partita, beh, insomma, sicuramente non sarà un processo indolore. Da quanto si apprende, a quanto abbiamo, diciamo così, accertato noi del Sole 24 Ore, quello che possiamo dire è che lui Della Valle fino a domani aspetta un segnale da parte di uno dei tre azionisti, diciamo così, dei tre soci di cui dicevo. Quale segnale? Una dichiarazione di, diciamo così, di disponibilità, di pace, no, più che di pace, di disponibilità a rivedere il piano industriale, in che termini? Con una maggiore enfasi sulla cessione di asset, soprattutto, questo al di là dell'aspetto del patto di sindacato, la parola chiave per Della Valle in questo momento è ristrutturazione del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, in modo, spera lui e sperano gli altri, poi da renderlo un po' più dinamico e in grado di stare sul mercato. Detto questo, c'è anche una questione che riguarda l'amministratore delegato, bisogna dirlo, perché questo piano industriale è stato fatto dall'amministratore delegato Scott Chione. Ora bisognerà vedere se un'eventuale modifica, come chiede Della Valle, come informalmente fanno anche sapere che si potrebbero rivedere alcune cose, se questo significa una sfiducia dell'attuale amministratore delegato. Ora, non è chiaro, lo stesso Della Valle, da quello che so, ha detto in conferenza stampa che lui non è contro Scott Chione, ma che in realtà, facendo così capire che in realtà l'opposizione maggiore sta venendo, l'opposizione, diciamo così, la pressione più forte sull'amministratore viene proprio da chi l'ha scelto, ovvero dalla Fiat e da Mediobanca. Questo è un po' il senso della sua conferenza. Quindi, cioè, attende un segnale di disponibilità a rivedere parte del piano industriale, questo è molto chiaro. Il gruppo Rizzoli Corriere della Sera dovrebbe chiudere l'anno con perdite di circa 240 milioni di euro e a debiti per 870 milioni di euro, e lo dico per correttezza, è difficile il momento per tutti i gruppi editoriali, non è un caso solo, quasi tutti i gruppi editoriali, non è un caso solo del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, e in quel caso si potrebbe arrivare, diciamo, a un accordo. Quindi, però, io credo in generale questa situazione qua che vediamo adesso è un po' lo specchio di quel capitalismo relazionale di cui abbiamo parlato tanto nelle settimane scorse, quando Mediobanca ha detto: voglio uscire dai patti di sindacato, voglio uscire dalle aziende salotto, chiamiamole così. Capitalismo da salotto. Il capitalismo da salotto è ancora esistente ed è questo ancora, per cui finché non si scioglieranno questi patti di sindacato che servivano esclusivamente a dare il controllo sulle aziende possedendo pochi titoli, ma messi insieme facevano abbastanza per governare. I patti sindacato funzionavano così, se lo dico molto brevemente: ognuno aveva una quota piccola, 2, 3, 4, 5%, però tutti assieme, se siamo in 7 e abbiamo tutti quanti il 3, 4, 5, avevamo una minoranza velocissimo di blocco. Il patto era che tu non potessi uscire da questo patto, per cui diventavi di fatto, pur con una quota del 3%, facevi parte di un gruppo che controllava gruppi molto molto più grandi. Ecco, non solo non potevi uscire, ma non potevi nemmeno comprare azioni. Esatto. Non potevi né venderle, perché nel patto è previsto che se uno degli soci del patto decide di vendere le azioni, c'è un diritto di prelazione da parte degli altri. Prelazione significa che gli altri hanno il diritto di comprarle prima che vengano messe sul mercato. Ma questa anomalia italiana dei patti di sindacato ci insegue da tanto tempo. Io ricordo quando ero corrispondente agli Stati Uniti che ci fu un caso in cui la Federal Reserve, cioè la Banca Centrale Americana, esaminò il patto di sindacato di Banca Intesa, dove c'erano più azionisti, c'era il Crédit Agricole, certo, e decise che Intesa era controllata dal Crédit Agricole, che avendo la quota maggiore all'interno del patto, per gli americani rappresentava l'unico azionista, cosa che invece per noi era solo un elemento di quell'azionariato. Sì, diciamo, fu la grande creatura di Enrico Cuccia, qui dovremmo tornare indietro a Mediobanca. Quello che disse che ma rischiato Intesa azioni... in quel caso, perché la Fed voleva far sì che la comunicazione finanziaria di Banca Intesa la facesse il Crédit Agricole, che sarebbe stata, diciamo, una situazione leggermente anomala. Grazie Alessandro Panderotti, vice direttore del Sole 24 Ore, per questa spiegazione in diretta, nel senso che la conferenza stampa è terminata da pochi minuti. Il traffico, e poi dicevo, uno dei pochi settori in cui torna l'occupazione, l'agricoltura, e occupano più giovani, fino a 200.000 la stima di quanti giovani potrebbero essere occupati, visto che parlavamo di finanza, chissà se uno degli effetti di questa crisi non sia anche cambiare il detto braccia rubate all'agricoltura in braccia rubate alla finanza. Traffico. Minuti di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, al di là dell'allarme, che a mio avviso è solo parzialmente un allarme, dei marchi italiani finiti in mani straniere per 10 miliardi, ho capito, ma se non ci sono compratori italiani, ci saranno compratori stranieri. È il mercato bellezza, dall'orzo bimbo agli sfumanti gancia, dai salumi fiorucci alla parmalat, dalla star al riso scotti e quant'altro. La buona notizia che arriva dal mondo dell'agricoltura e della Coldiretti nel caso specifico, che vi è stato un più 9% di assunzioni nel 2013, e aggiunge il presidente Sergio Marini che con il ricambio generazionale sono possibili 200.000 nuovi posti di lavoro. Quindi basta dire braccia rubate all'agricoltura, anzi. E tornano i giovani, gli under 35. Il presidente di Coldiretti, Sergio Marini, è in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, io già dicevo prima, attenzione a immaginare l'agricoltura con le lenti e gli occhi di 40-50 anni fa. L'agricoltura di adesso sono imprenditori che investono in macchinari a altissimo contenuto tecnologico, molte volte, che fanno filiera, che puntano anche sulle produzioni, diciamo, a carattere più biodinamico o a carattere più biologico. Però insomma, com'è possibile che voi siete l'unico settore in cui aumenta l'occupazione, Marini? Beh, diciamo che non certo per il reddito che ancora non c'è in agricoltura, perché sente fortemente la crisi che sentiamo tutti, in più viene da 2 anni difficili dal punto di vista climatologico con danni enormi alla produzione. Però a mio giudizio nell'agricoltura, nel cibo, nell'agroalimentare c'è un profumo di futuro. Nel senso che si inizia a pensare che nel futuro di questo paese, nel modello di sviluppo futuro di questo paese, ci sarà ancora spazio importante per il Made in Italy agroalimentare. Io il fatto che noi abbiamo, come dire, denunciato tra virgolette le multinazionali che vengono in Italia a comperarsi i marchi, non lo lanciamo come grave allarme, lo lanciamo come momento di riflessione. Perché le multinazionali di ogni settore se ne vanno dall'Italia e sull'agroalimentare vengono, comprano i marchi? Poi non è detto che comprare il marchio significa delocalizzare, a volte rimangono anche con la produzione, però i giovani e anche le multinazionali generalmente hanno una visione di medio-lungo periodo, il che significa che pensano che nella prospettiva del paese ci possa essere business nell'agroalimentare e nel cibo. Peraltro ci copiano, 60 miliardi di finto made in Italy nel mondo, cioè se solo recuperassimo una fetta di quella creeremmo un sacco di economia nostra. Ma questo a me fa assolutamente piacere. Mi sa dire anche dove vanno questi neoagricoltori giovani soprattutto? Ecco, qui il racconto dell'agricoltura di oggi è veramente difficile farla, perché noi conosciamo storicamente l'agricoltura, quella che è esistita fino agli anni 80, per cui l'agricoltura delle materie prime che poi dopo in qualche maniera andavano a finire all'industria o alla trasformazione, il prodotto fresco magari alla distribuzione, però l'agricoltura finiva nella produzione della materia prima. Oggi l'agricoltura sono tantissime attività anche legate alla multifunzionalità, dove l'elemento essenziale non è esclusivamente il produrre, ma anche l'aggiungere nei prodotti tantissima creatività, innovazione, biodiversità. Poi questa gente si muove in tutti i mercati, in quello locale del chilometro zero dove si fanno i mercati degli agricoltori, magari di campagne amiche, dove si cerca di conquistare un mercato locale puntando sul giusto prezzo, sulla qualità, sulla freschezza, sull'ambiente, ma anche piccole aziende di piccole dimensioni che prendono la valigia e vanno nel mondo. Cioè chi vende mozzarella di bufala campana, o chi vende per dire, o chi produce i grandi vini italiani, non è detto che siano grandi aziende, sono anche piccole aziende, solo che al momento produttivo aggiungono quello della trasformazione e poi dopo si mettono in un mercato mondiale che magari è di ristorazione o di piccola distribuzione. Cioè c'è veramente di tutto, fino ad arrivare a quell'azienda a cui lei faceva un po' riferimento, che sono un po' più, diciamo, di richiamo bucolico, quelle della biodinamica o del biologico spinto, o fino alle aziende che vanno verso il sociale, cioè fattorie sociali, eccetera. Cioè oggi l'agricoltura è difficile inquadrarla come produzione di materie prime. Tutto questo crea una multifunzionalità del settore dove tanti giovani e tante donne, devo dire, tornano a scommetterci. Oggi abbiamo un po' di tutto, abbiamo ancora la vecchia agricoltura che piano piano si sta ridimensionando e abbiamo la nuova, soprattutto affollata di giovani, anche giovani laureati, professionalizzati, che invece iniziano a scommettere perché pensano che dentro quel settore lì ci possa essere, ma in alcuni casi già c'è oggi, torno a dire, profumo di prospettiva e di futuro, proprio come fanno le multinazionali per quanto riguarda invece i grandi marchi e l'agroalimentare italiano. Ecco, chiudiamo su questo, ma perché siete così preoccupati perché alcuni marchi italiani per oltre 10 miliardi di euro sono stati comprati da stranieri? Nel senso che noi ci lamentiamo sempre che manchino gli investimenti stranieri in Italia. E se poi vengono... Ma noi siamo preoccupati se poi questi marchi e a questa acquisizione segue una delocalizzazione. Vabbè, ma come si fa a delocalizzare in agricoltura? Non chiedo, No, si può delocalizzare, purtroppo l'agricoltura non può delocalizzare, ma la trasformazione può. Purtroppo, per fortuna, Marini, per fortuna. Per fortuna non può delocalizzare. Ma perché... per fortuna. Infatti siamo preoccupati perché l'acquisizione del marchio in sé per sé non garantisce la permanenza necessariamente del sistema. Cioè se io mi compro il marchio Orzo Bimbo o Riso Scotti o Spumante Gancia, tutti e tre casi in cui sono finiti in mani straniere, voi cosa temete? Che il grano o il riso venga fatto da altre parti e poi messo... Non è che lo temiamo, è un dato di fatto, nel senso che quando Lactalis compra Parmalat, dopodiché compra gli stabilimenti di Parmalat in Italia, ma poi il latte lo compra in tutto il mondo, anche in Italia se vuole, e se a un certo punto decidesse con il marchio Parmalat di portarlo in giro per il mondo e chiudere gli stabilimenti italiani, lo può fare, ma questo è mercato, è libero mercato, nessuno ha nulla a che dire. Io dico che l'Italia però si dovrebbe attrezzare, visto che l'agroalimentare è così appetibile, si dovrebbe attrezzare per far sì che qualcosa rimanga nel nostro paese, anche rimane in mano a capitali italiani. Io penso che perdere i marchi significa rischiare di perdere un pezzo di Made in Italy che, se non legato all'agricoltura, lo perdiamo una volta per sempre. Certo. Se invece questi marchi si legano all'agricoltura, magari con un po' di capitale italiano, probabilmente rimangono dei marchi italiani che creano lavoro, occupazione, che pagano le tasse in Italia, e pertanto c'è ancora una certa quantità di italianità. Alcuni marchi di italianità hanno soltanto... Mi dica una cosa, un ultimo appello. Non sono un po' bassi i redditi denunciati dagli agricoltori italiani? Sono cifre veramente risibili. Allora, no. I redditi, il settore, l'agricoltura italiana, così come i redditi da capitali immobiliari in generale, pertanto le abitazioni e quanto altro, sono stabiliti da degli studi di settore, pertanto reddito agrario e domenicale. Purtroppo l'agricoltura, anzi per fortuna per il paese devo dire, l'agricoltura non può evadere neanche un centesimo, perché arrivano direttamente dal catasto quelli che sono i redditi di ciascuna azienda, e su quei redditi paga evidentemente le tasse, pertanto non c'è possibilità in agricoltura di evadere perché si paga su vendite prefissate. Marini, io devo chiudere il programma perché sennò su questo riaprirei un'altra ora e mezza di diretta, ma non posso. Comunque grazie al presidente della Coldiretti, Sergio Marini, un augurio da Sebastiano Barisoni e voi in ascolto di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.